Let's start what we have come into the room to do. Please cut the fuck. To do. Fuck. Do. Fuck. Fuck. To do. www.askthebenny.com. E ben ritrovati, ben ritrovate. Ciao Colli, ben ritrovato. Come abbiamo Ciao, sentito Piero. Dire questa bellissima voce, iniziamo un'altra volta quello che siamo venuti a fare nella stanza, che è questa cosa che siamo abituati a dire. Sì, ce la ripetiamo, no? Ce la ripetiamo perché è bello, anche il concetto della stanza. Ma insomma, siamo tornati perché questo è Battito Madre in diretta. Questa sera solo su Radio Exalgio, perché sulle web frequenze di astralbene.com sta succedendo un'altra cosa. Al cinema Barberini c'è la proiezione della biopic su Bob Marley. I fratelli e le sorelle di Astralbene sono andati ad animare questo evento. Dunque, noi siamo qui a Exalgio in Milano per il secondo episodio, lo chiamiamo, perché alla fine è il secondo dopo il pilota. Dopo il primo. Sì, esattamente. Bello ritrovarsi qui a fare radio, bello ritrovarsi Exalge, bello ritrovare mio fratello Coli qui alla mia sinistra. Eccoci, questa sera sarà calda. Facciamo un piccolo recap. Noi lunedì siamo stati a Torino, ospiti della family di Radio Banda Larga Torino, a fare insomma quello che è diventato l'altro nostro appuntamento mensile, cioè tutti i terzi mercoledì del mese voi troverete Battito Madre su RBL Torino, a parlare molto poco e a suonare molta musica. È un po' il lato negativo di quello che facciamo qui, il negativo insomma, come in fotografia, in senso ovviamente, esatto. Perché è tutto positivo. Ebbene, che cosa è successo nel frattempo? Allora, nel frattempo la cosa importante che mi interessa dire che è successa è che è stata riprovata la grandissima influenza di questa nostra trasmissione che chiamiamo Battito Madre sul sistema musicale italiano. Ah già, è vero. Perché noi ragazzi un mese fa abbiamo fatto la puntata sulla Scumbias. E chi si aspettava? E dopodiché è successo Sanremo. E che pezzo ha vinto Sanremo? Un pezzo che si ispira alla cumbia. Per cui io direi che ormai possiamo andare in pensione, Colli, perché abbiamo già provato che abbiamo questa influenza tremenda su tutto il sistema musica Italia. Ma sì, cantiamocelo, diciamocelo. E quindi ci sentiamo Angelina Mango. No, sto scherzando ovviamente, perché non è una cosa molto Battito Madre. Ma insomma, veniamo a noi, perché oggi un'altra puntata ispanohablante. E insomma, va bene, si è già capito perché l'abbiamo comunicato un po' in tante salse. Parliamo di tre culture, più di generi musicali, che sono flamenco, fado e tango. E non abbiamo trovato modo migliore di iniziare se non così, Coli, e io direi di lanciarci subito, perché oggi parliamo di tante chitarre, tanti battiti di mani e soprattutto qui all'inizio parliamo di cultura nomade, gitana, zingara. E quindi drittissimi io andrei a sentirci il pezzo copertina, il primo pezzo di questa sera che conosciamo tutti, perché sono arrivati i Gypsy Kings, niente po' di meno, con questo pezzo che appunto è leggenda. Quindi arriva Bamboleo di Gypsy Kings, questo è Battito Madre in diretta su Radio Exalge. Amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te ha desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro alabando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento así de nada. già cagliè, lo pienso in ti. Bamboleia, bamboleia, perché mi viaggio la frentiera di dirà sì. Sì, erano i Gypsy Kings con Bamboleo, questo pezzo che insomma abbiamo sentito ovunque, conosciamo tutti, ma con cui, e se non è un ma, è un e, con cui ci piaceva introdurre questo episodio di Battito Madre su flamenco, fado e tango. Ma perché ci è sembrato in realtà, oltre che è divertente, ballerino e quindi ci piace, ma perché ci è sembrato giusto suonare questo in apertura? Beh, intanto è una netta ispirazione e evoluzione del flamenco, quindi questo qua è il genere con cui decidiamo di parlare, di incominciare a parlare questa serata. E beh, cosa c'è di meglio? Nel senso, anche nella puntata scorsa con le cumbie ci siamo detti: troviamo un pezzo che bam, che dia un ingresso che tutti possiamo riconoscere e ritrovarci. Questo qua è la colonna sonora di film e vite e viaggi, sì, chissà quanti. Di chissà quanti. E quindi niente, era giusto così. Poi Gypsy King, il nome già parla da sé. Per cui insomma c'è tantissimo flamenco in questo pezzo, basta avere l'orecchio per ascoltarlo. Ma l'abbiamo già nominato tante volte e c'è una prima cosa da dire, quindi va affrontato. Che cos'è il flamenco? Perché in realtà come las cumbias di un mese fa e come altre cose che vedremo sempre oggi, flamenco non è un genere musicale, flamenco non è solo una danza, flamenco non è solo un canto, ma è tutte queste tre cose insieme. È una cultura musicale che tiene tutto insieme, anzi musicale e coreutica, perché non, insomma, è rarissimo, non esiste quasi il flamenco senza una parte cantata del cantaor. E coreutica anche, credo perché coinvolge diverse culture e diverse esperienze. Possiamo già iniziare citando quella gitana di cui abbiamo appena parlato, che è gitana che arriva fin dall'India come tipo di migrazione. Sì, infatti qua c'è per me già una sorpresa grande, insomma, perché va bene, cultura gitana, ok, però leggiamo che questa cultura gitana che ha tanto influenzato la cultura musicale iberica da portare al flamenco è una migrazione che arriva dall'India e che è iniziata secoli prima, cioè generazioni nate, cresciute e morte anche spesso in migrazione, e questi sono arrivati dall'India alla penisola iberica, che io già trovo una cosa incredibile. C'è appunto una serie di stratificazioni, perché questa cultura gitana ha incontrato quella che era all'epoca, perché all'epoca la Spagna era in gran parte dominata dagli arabi, per cui c'è quell'elemento lì, questa stratificazione qui nel flamenco. C'è la presenza di ebrei e marrani, che i marrani erano gli ebrei convertiti, no? Certo, e poi c'è alla fine il culmine, come più o meno in tutti i generi di cui stiamo parlando, che è il Novecento, in cui si affermano determinate cose, tra cui anche il flamenco. Sì, perché il flamenco, come tutti alla fine i generi di cui parliamo, che è Battito Madre, come tanti dei generi che ascoltiamo, con il Novecento è arrivato definitivamente a costituirsi in popular music, nel senso che abbiamo capito a inizio stagione, cioè quell'incontro tra cultura popolare, folk e tradizionale e la distribuzione, diciamo, e l'industria musicale. Piccola incursione, il nome del flamenco, l'etimologia è incertissima. Appare questo nome la prima volta nel 1863 e non si capisce da dove venga. In realtà il primo modo in cui viene chiamato il flamenco è cantejondo, cosa che adesso in realtà viene chiamato semplicemente la parte musicale del flamenco. Forse viene focosità, la flamansia, com'è che si può dire, la caratteristica di questo ballo, questa danza, che deve essere appunto è molto corporea, è sensuale. Sì, lo stato di intensa partecipazione emotiva, leggiamo, quasi di trance, essenziale per vivere questa musica, che si chiama anche il duende, così lo chiamano gli andalusi. Brevissima introduzione, a proposito di cantejondo, c'è un personaggio che nel Novecento ha contribuito quasi da solo a portare il nome del flamenco e del cantejondo a livello internazionale, con non solo cantando, ma ha fatto film, è stato un personaggio davvero a tutto tondo. Lui si chiama ovviamente Camarón de la Isla. Nome d'arte è Camarón de la Isla, però. Ovviamente. Il gamberone. Ho letto che veniva chiamato così perché era biondo. Rosso, io invece ho letto rosso. Ah, ecco, vedi, allora forse mi sto confondendo io, ma ha detto questo. Rosso e con la pelle bianca, quindi per quello gamberone. Ah, certo, giusto, ha molto più senso così. E quindi i gitani ovviamente hanno subito soprannominato il gamberone. Allora, a proposito di gitani, di zingari, andalusi, questo pezzo di Camarón de la Isla si chiama, non a caso, Soy Gitano, ed è un flamencon, e andiamo a sentire, sempre in diretta su Radio Exaglia, sempre Battito Madre, episodio 2. Porque ya no puedo. Amarón de la Isla, una leggenda del flamenco contemporaneo, cantava appunto "Soy gitano, il ritornello e vengo a tuo casamento a partirmi la camisa", cioè orgogliosi. Sì, esatto. Vengo al tuo matrimonio, probabilmente a questo punto imbucato, a come si dice, a strapparmi di dosso la camicia, che tra l'altro è anche la sola che possiedo. Divertente questo spirito che alla fine fa proprio parte della tradizione, della cultura, del patrimonio del flamenco, perché appunto questo elemento gitano di strada è fondamentale, ecco. Ma a proposito di storia, proprio di questa cultura... Ne abbiamo tanta oggi di storia. Sì, esatto. Infatti forse dovremmo cercare di velocizzarci, per cui corriamo, insomma. Succede che è arrivato il flamenco all'attenzione pubblica, all'attenzione di più persone, nella seconda metà dell'Ottocento, perché tra fine Settecento e Ottocento era, come diremmo adesso, underground. Questa diffusione più pubblica, la svolta è stata qualcosa di cui noi abbiamo parlato a fine novembre, cioè il caffè cantante, l'arrivo del caffè chantant francese in Spagna, che diventa caffè cantante. Il primo in Spagna viene aperto a Siviglia nel 1842 e subito, insomma, succede quello che stava succedendo, se non in tutta Europa, sicuramente in tutta l'Europa mediterranea, cioè che quei luoghi lì diventano davvero i centri di vita sociale più importanti e certo, più visitati. Si chiamava questo... Ah no, scusa. Grande successo, insomma. Sì, grandissimo successo di caffè cantante in Spagna. Ce n'erano qualche tre, nome, ovviamente. Esatto, c'è quello di Silverio, del Burrero, il Filarmonico, il Caffè Concierto Novedades, e insomma, e tantissimi altri. Tra Madrid e Barcellona parliamo di forse una quarantina, cinquantina. Ma quelli che sono le cifre stilistiche del flamenco si erano già andate costituendo in qualche modo prima, cioè nella fase underground, nei cortili andalusi tra Siviglia, Cadice, Jerez, e soprattutto, va bene, sì, tra taverne e alle feste di benestanti, per cui come in tante altre cose che abbiamo visto e che continueremo a vedere oggi, c'è sempre questa doppia dimensione, no? Questa sovrapposizione tra società, diciamo, bassa e alta, tra proprio tipi umani molto diversi. Sì. In questo caso poi in particolare, o meglio con l'avvento proprio di questi caffè cantantes, in cui proprio la borghesia, comunque le persone di un ceto sociale più alto, trovavano del fascino vero e proprio in questi spettacoli che venivano portati al pubblico. Ed è proprio in questa fase underground, diciamo, appunto tra Siviglia, Cadice e Jerez, che vengono, dicevo, definiti gli stili fondamentali del flamenco, quelli che adesso chiamiamo cantes primitivos, che si chiamavano tonas, segurias, soleares e tangos. Già qui c'è un elemento davvero davvero interessante. Da queste cose qui, da questi quattro stili qui, deriva tutto quello che noi adesso chiamiamo tutti gli stili del flamenco attuale, che si chiamano palos, insomma... piccola cosa didattica che ci tocca anche fare ogni tanto. È di quel tempo là anche un'altra cosa che noi oggi riteniamo inseparabile dal flamenco, che è questo canto che abbiamo sentito perfettamente, l'utilizzo della voce che fa Camarón de la Isla, questa voce roca, no? Che in realtà non è mai stonata, però senti, c'è questa tensione davvero che faccio fatica a dire in parole. Insomma, questa si chiama Voz Afilla, che prende il nome da Francisco Ortega Vargas, che veniva chiamato El Fillo, è stato uno dei primi, delle prime superstar del flamenco, è stato il primo a cantare così. Ci sono dei documenti dell'epoca che testimoniano come in realtà all'epoca questa cosa venisse percepita come sbagliata, come una stortura della tradizione, e invece El Fillo evidentemente era talmente bravo che ha inciso proprio sulla storia di questa cultura musicale. Da allora in avanti chiunque sia un cantaor di flamenco deve omaggiare El Fillo, almeno all'inizio, facendo un pezzo con la voz Afilla. E va bene, insomma, poi ecco il testo che noi abbiamo preso principalmente come a fonte per questa puntata, che si chiama Coli, ricordamelo. Oddio, si chiama... Allora, l'ha scritto Franco Fabris, e si chiama Around the Clock. Perfetto. C'è questa nota che alla fine è interessante perché dice, insomma, l'idea che il flamenco sia risultato dall'urbanizzazione del cantejondo, lui dice che in realtà non è vero, perché proprio in quel momento di urbanizzazione, come abbiamo appena finito di dire, è lì che si sono definite davvero le categorie del cantejondo. Per cui, come tutta la storia della musica, come tante delle cose che abbiamo già visto e che vedremo, non c'è una causa e un effetto, ma ci sono più che invece grovigli di fattori, di eventi che poi danno forma agli eventi, proprio così come li conosciamo. E a proposito di urbanizzazione, io sono contento, noi siamo contenti di aver visto arrivare Letizia e Govin qui, perché ci hanno fatto scoprire un artista che è diventata una delle preferite di questa trasmissione, che si chiama Queralt Laos. Lei in realtà è non andalusa ma catalana, con nonna andalusa che le ha passato questo patrimonio del flamenco, e fa flamenco oggi nel 2024. Andiamo a sentirci il pezzo che si chiama De la Cueva a los Olivos, appunto Queralt Laos in diretta su Battito Madre. La que tus labios han mojado, la que tus ojos han hecho llorar. Que me perdonen los demonios, porque yo no sé si Dios me acompaña, pero si es así, ella es mi abuela, ella es mi abuela. Tengo bien claro que bien que me ampara, aunque yo no la vea, siempre me acompaña y piso con ella. Yo sigo sus huellas, yo sigo sus huellas. No existe una estrella polar que me haga viajar como lo hizo ella, como lo hizo ella. Qué rico que fue encontrar la suerte en mi ayer, encontrar la bendición en mis ancestros, que yo lo sé bien. Me echaron la carta, me leyeron el bocito del café. La suerte de mi lado, por todo lo que habíamos peleado, con 57 compitiendo un peso pesado, con el número marcado. Ahora está la suerte de mi lado, por todo lo que habíamos peleado, con 57 compitiendo un peso pesado. Traigo las mejores recetas, esta fiera no se puede quedar quieta. Tengo por costumbre cumplir meta, aquí se respeta, aquí se respeta. Traigo las mejores recetas, de esta fiera no se puede quedar quieta. Tengo por costumbre cumplir meta, aquí se respeta, aquí se respeta. Queralt Laos, De la Cueva a los Olivos, è questo pezzo che abbiamo scelto per, diciamo, sentire qualche artista attuale che abbia fortissima l'influenza del flamenco. Abbiamo detto della nonna catalana di Queralt Laos, che appunto ha questo nome molto, molto andalusa, esatto, questo nome molto catalano, Queralt, che appunto ha la nonna andalusa, l'abbiamo sentita nominare in questo pezzo. Che appunto della Cueva Los Olivos. Abbiamo nominato prima Coni e il figlio, che io in realtà direi il figlio, ma visto che parliamo di flamenco, per cui spagnolo iberico, dico el figlio, cioè Francisco Ortega Vargas, che e è stato la prima superstar. Abbiamo anche fatto vedere al pubblico, sì. Abbiamo fatto un piccolo post in cui ci sono le varie, abbiamo scelto delle immagini, c'è anche la faccia di el figlio, che è un bel figlio, c'è un, diciamo che street credibility ne aveva. Proprio faceva brutto il figlio, che i cui allievi, di cui due tra i suoi allievi sono stati poi Silverio Franconetti Aguilar, detto Silverio, di origine italiana, e mentre un puro gitano, Tomás de Vargas Suárez, detto El Nitri, di cui in realtà che del figlio era anche nipote. Cioè, nipote del figlio, cioè, esatto, che era anche nipote del figlio. Fatto sta che tra questi due, tra Silverio e il Nitri, nasce questa rivalità fortissima dopo che Silverio, l'italiano, torna dall'Uruguay nell'86, 1886, e fonda il proprio caffè. L'italiano, questo Silverio, aveva uno stile di canto molto addolcito, tanto che Federico García Lorca, grandissimo poeta andaluso, morto molto giovane, tra l'altro vittima del franchismo, è stato giustiziato dai franchisti, García Lorca commentava così il canto di Silverio, cioè diceva che nel suo canto erano mescolati il denso miele d'Italia col nostro limone, nostro nel senso di andaluso. Però appunto con questo suo stile Silverio diffonde il cantecondo fuori proprio dall'ambiente culturale gitano, che tendeva, che in realtà fino a quel punto non era molto chiuso, mentre cosa fa? El Nitri, leggiamo, codifica quello che è l'atteggiamento di diffidenza dei gitani nei confronti dei payos, che sono i non gitani. E questa è una rivalità molto accesa che a noi divertiva proprio anche come aneddoto, il fatto che adesso, che un'altra cosa che noi magari consideriamo che sia fondamentale del flamenco o della cultura del flamenco, che è questo atteggiamento di diffidenza di gitani verso i non gitani, sì, leggiamo che era una cosa che all'inizio non esisteva, ma che è nata con la rivalità tra Silverio e il Nitri. Ma posso dire che anche adesso non ce n'è la minima traccia di questa diffidenza, non lo so, così gitana come la chiamano loro. È vero, noi non la percepiamo. Io credo, credo che se camminassimo per certe strade di Granada, Cadice o Siviglia in certe ore della notte, forse potremmo sentirla, ma questo resta un sospetto mio. Detto questo, un altro nome che potremmo fare è quello di Don Antonio Chacón, che dopo, cioè negli anni 20 del Novecento, quando il flamenco è stato istituzionalizzato, lui è stato un grande protetto dell'aristocrazia, ovviamente si è beccato le critiche dei puristi tradizionalisti, che dicevano che aveva tradito il cantecondo e il flamenco originale. Ma insomma, succede sempre un pochino così anche a chi innova e comunque fa crescere una cultura. Abbiamo abbastanza chiuso, quasi, con il flamenco, perché tra poco ci sposteremo, anche se non di poco, in realtà non prima di aver sentito quest'altro pezzo molto bello, molto interessante, in cui il flamenco è presentissimo, che si chiama Las Caritas Desnudas, di Javier Limón e La Susi. Sentiamo proprio qua, c'è quel cantecondo, quel duende, no, di cui abbiamo parlato prima, quella partecipazione intensissima di chi canta. Bando alle ciance, Las Caritas Desnudas, questo è sempre Battito Madre, sempre su Radio Exalge. Las olas caían, las olas que no paran. mare es el mismo repetido, solo cambia el puerto y su beso con el río. Vete al mar, la boquita del mundo y las olas que no paren, las olas que no paren, que no paren un minuto. Si alguna vez el mar se cambia, Caritas Desnudas di Javier Limone e la Susi, appunto abbiamo sentito il duende, no? Cazzo, mi veniva da piangere a me sentendo lei cantare con e, tutta... e la voce vetrosa e... esatto, la bossa figa così tradizionale del flamenco. Mentre abbiamo detto chiudiamo questo capitolo flamenco sperando in realtà di essere stati forse sì il più chiari possibile, perché alla fine le cose, queste cose non sono oggi così semplici, però in realtà quello che dovevamo dire l'avevamo detto. Ci spostiamo di poco, perché restiamo sempre in quella penisola lì, che è la penisola iberica, dalla Spagna al Portogallo, per incontrare quest'altro che non è un genere musicale, che non è una danza, che non è, ma è questa cultura che tiene tutto insieme, del fado. Il fado portoghese. Fado portoghese, dalle origini non meno complesse, perché appunto parliamo ovviamente di un altro territorio, che parliamo di Lisbona, tra l'altro, non è, perché non è esattamente portoghese il fado, ma è proprio caratteristico di Lisbona e in realtà di un quartiere di Lisbona che si chiama l'Alfama. Insomma, Lisbona era stata capitale, era capitale di un impero che possedeva, le cui sponde toccavano tutti i mari del mondo, per cui la multiculturalità di quella città lì già centinaia di anni fa era molto forte. Per cui già, ad esempio, a inizio dell'Ottocento c'era tantissima popolazione di origine africana o comunque già meticcia, che si concentra appunto nel quartiere di Alfama. Il Brasile, in realtà, dal Portogallo aveva ottenuto l'indipendenza nel 1822 e tante di queste persone meticce o di origine africana venivano proprio dal Brasile, dove diffondono due danze, che sono proprio quelle, vengono ancora, fanno ancora parte del loro patrimonio culturale africano. E queste due danze si chiamano Fofa e Lundum, che questo Lundum andava avanti e indietro tra Portogallo e Brasile. In realtà non si capisce, è un po' il gioco dell'uovo e della gallina, non si capisce se sia nato prima in Portogallo o in Brasile, ma fatto sta che è una di queste danze afrodiscendenti, che venivano associate a delle canzoni accompagnate con la chitarra, in cui dai temi molto espliciti, molto o allusivi sessualmente o comunque che raccontavano anche scene di violenza non censurata. Queste due danze accompagnate da queste musiche già in Brasile erano chiamate fado, si diceva battere il fado in Brasile, perché appunto venivano continuamente battuti i calcagni e i fianchi si muovevano con questo fare allusivo e come si dice, parallelo? Per sì, che va da una parte all'altra, diciamo, ecco. E ancora una volta è quanto la danza sia legata a un altro genere musicale, al genere musicale. Sì, perché noi qui in questa trasmissione assumiamo il concetto di musica che in realtà è originario del West Africa, in cui non i concetti di musica e danza non sono separati, ma sono una sola cosa. E così abbiamo incrociato nel flamenco, così incrociamo nel fado, così abbiamo incrociato con la cumbia e così incroceremo tante altre volte. Resta da dire che il fado, in realtà abbiamo già detto a novembre, ma viene da fatum latino, per cui ha anche già nel titolo questo... Abbiamo parlato di sentimento prima col flamenco, ma ce n'è tanto anche nel fado, tant'è che è stato detto il blues delle vedove dei pescatori portoghesi. Insomma, a queste origini afrodiscendenti o comunque meticce si sono andate a Lisbona, nella capitale, con l'urbanizzazione, stratificando di nuovo degli altri elementi più autoctoni, anche in realtà più alti, più colti, portoghesi, come ad esempio la quatrain, che è portoghese brasiliana, o la modigna, che sono andati sostanzialmente a formare quello che noi oggi conosciamo come fado, per cui con temi leggiamo anche più castigati, non più direttamente violenti o non troppo allusivi. Per passare così dolcemente da flamenco a fado, ci andiamo a sentire questo pezzo che è della fadista, una delle fadiste più conosciute, più famose del Portogallo, che si chiama Marisa, e invece una flamenchista spagnola che si chiama Buica. E il pezzo si chiama Pequeñas Verdades, cioè piccole verità, ed è un misto tra un flamenco e un fado, e noi ce lo andiamo a sentire su Battito Madre, su Radio Exalia. Siamo sempre qui. No meu deserto di água non havia luz para te olhar, tive que roubar a lua para te poder iluminar. Quando iluminei o teu rosto, fez-se dia no meu corpo. Enquanto eu te iluminava, minha alma nascia de novo. São as pequenas verdades as que guiam meu caminho. Verdades brancas como a manhã, que abre a janela do nosso destino. Como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. É verdade que a sombra do ar me queima. Ai, é verdade que sem ti eu morro de pena. Misteriosa era tu boca, misterioso mi lamento. Aún no sé si nuestro amor de primavera fue verdad o solo el sueño de cualquiera. Cuando la soledad regrese, ciega de amor me iré a la muerte. Las verdades solo existen en rincones de la mente. Esas pequeñas verdades que guiaron mi camino. Verdades blancas como la mañana que abre la ventana de nuestro destino. Como tu mirada cuando tú me miras, como tu recuerdo cuando ya te has ido. Es verdad que la sombra del aire me quema. Ay, es verdad que sin ti yo me muero de pena. Son las pequeñas verdades as que guiam meu caminho. Verdades brancas como a manhã, que abre a janela do nosso destino. Como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. É verdade que a sombra do ar me queima. Ai, és verdade que sem ti eu me muero de pena. Eu morro de pena. Pequenas Verdades di Marisa e Buica era il primo pezzo con cui abbiamo deciso di presentare il fado, questo genere autoctono di Lisbona, Portogallo. E, appunto, abbiamo detto genere meticcio, che in cui c'è chiarissima una componente di afrodiscendenza, perché viene da due danze tradizionali che afrodiscendenti o metici portavano dai quattro angoli dell'impero, sostanzialmente a Lisbona. E il quartiere, abbiamo detto, è quello di Alfama. E insomma, leggiamo che esatto, ce lo possiamo immaginare un po' questo quartiere, comunque, come dicevamo prima. Sì, sì, tra l'altro c'è stratificazione sociale importante, pescatori, perché il fado era una, era una, un sentimento portato da, dicevamo, dalle vedove dei pescatori. Quindi, cioè, comunque l'ambiente era, è ben chiaro. Sì, io ci sono anche stato da poco, tra l'altro, ad Alfama, a visitare il Museo del Fado, che ovviamente non poteva essere in nessun altro quartiere. Il posto, io ho l'impressione che non sia cambiato così tanto, perché c'è molto, ma case basse, vedi proprio anche facce popolari, insomma... È davvero stata una bella esperienza anche entrare dentro il Museo del Fado, in cui tra le altre cose la cosa che mi ha fatto ridere è che dietro una teca, in una sala, tra un disco e un'opera letteraria sul Fado, c'era un coltello serramanico che veniva usato nelle osterie. Perché poi il fadista, prima ancora di una persona che canta e suona il Fado, era considerato questo tipo umano, questo che poi... in Argentina, a Buenos Aires, sul Rio della Plata, chiamano il guappo, che comunque erano gli stessi personaggi che frequentavano i caffè cantanti a Napoli o a Parigi durante quegli anni là. Erano questi personaggi, diciamo, poco raccomandabili, dei piccoli criminali. Per cui la parola fadista in realtà prima indica quello, e che loro poi facessero del fado era quasi un accessorio, una cosa casuale. Il termine gli veniva lanciato addosso quando, sì, esatto, quando finivano l'esibizione, fadista, fadista. Esatto, se il pubblico gradiva loro gli dicevano fadista, però era in senso buono. Fatto sta che c'è sempre questo elemento che abbiamo trovato anche nel flamenco di... Che cosa provoca la popolarità di queste cose? Il fatto che poi vanno ad attrarre anche persone che non fanno parte di quel gruppo sociale in cui quelle sono nate. Cioè, qui è decisiva un'altra volta l'attenzione della borghesia, che va a cercare appunto quella piccola criminalità, quel brivido del leggero pericolo, no? In queste taverne, in queste casas do fado, che all'inizio casas do fado erano i bordelli, per cui gli ambienti sociali erano questi. Vabbè. Io ho letto anche che la dittatura di Salazar ha partecipato alla diffusione del fado in quanto identità nazionale, e quindi da che era prima musica per bordelli è diventata poi anche una cosa studiata nelle scuole, ovviamente. Ecco, un fado che invece non è di Lisbona ma è diventato negli anni molto importante, che a questo si può collegare, perché in realtà è la versione più raffinata, se vogliamo, del fado, perché magari scompaiono o vengono molto ridotti i temi di violenza o di forte allusione per, diciamo, prediligere un'altezza poetica diversa, che è il fado di Coimbra. Certo. Non solo di Coimbra, ma proprio dell'università di Coimbra. Ci siamo, per la selezione dei pezzi, ci siamo imbattuti un po' in quello che è il fado di Coimbra e siamo arrivati a sentire cose tipo di cori, no? Di fadisti, di musica, vero, del fado. Quindi credo ci fosse un coro famoso nella scuola di Coimbra. Sì, che... sì, il coro dell'università di Coimbra, che noi non andremo a sentire, però segnatevelo perché è davvero interessante. Ci sono delle cose carine che però erano anche poco radiofoniche e non ci potevamo suonare. Però una cosa che abbiamo pensato è che ovviamente questo è uno sviluppo più tardivo, è molto, ci è sembrato molto molto simile a quello che poi è diventato il cantautorato italiano. È un ibrido, è questa versione un po' elevata del fado che arriva ad assomigliare forse proprio nell'attitudine e negli ambienti a qualche pezzo di, che ne so, di Guccini, di De André. Sì, un po' politico, esatto, un'altra nota molto caratteristica della scuola di Coimbra, che comunque era un fado politico, politicizzato. Esatto, perché l'ambiente e i tempi erano quelli. Allora, questo fado di Coimbra ce lo andiamo a sentire in un pezzo che si intitola Cansao Quasi de Embalar, di Luis Goes, che è stato appunto ovviamente uno dei più conosciuti, dei più in vista di questa versione del fado. E ce l'andiamo ad ascoltare direttamente da Coimbra in diretta su Radio Exalge. lua deserta, quem te comprou, quem te vendeu, quem te quis assim desperta do sonho que há em ti morou. Pobre menina acordada, deste tudo e não tens nada, quem te esqueceu? Mas sempre menina, quem não chegou, quem não partiu, quem teve a mão uma sina e nem sequer atentou. Pobre menina, cansavo quasi d'imbalar del dottor Luis Goes, perché prima ho messo il dottore, quando in realtà nella copertina del disco c'è proprio scritto dottor Luis Goes, insomma mi perdonerà il dottore, ma questo ci dice anche dell'ambiente in cui, no, questo fado di Coimbra è nato, perché era proprio tra studenti e studentesse universitari. Io professor, o dottor. E tra questi ci stava anche o dottor Luis Goes. E il destino del fado è quello che ha avuto anche il flamenco, quello che avranno anche tanti generi di musica popolare, cioè quello di entrare definitivamente a contatto con l'industria musicale e quindi di secolarizzarsi come popular music, questo insieme di folklore e grande diffusione. La stessa cosa a proposito di musiche popolari glorificate, che sono diventate mondiali, partendo da Città di Fiume, cioè arriviamo a questo che è forse la presenza più grossa dentro questa puntata, perché poi l'evento che ci sarà qui è legato a questo, che è appunto il tango. E che qual è la città di Fiume da cui viene il tango, o meglio il fiume, perché poi ci sono alla fine due città, che il fiume è il Rio della Plata, le due città sarebbero Montevideo e Buenos Aires. Il tango, leggiamo, in realtà prima ancora del jazz travalica i confini della propria regione e va e si impone, va a imporsi come popular music internazionale. Ovviamente anche il tango, manco a dirlo, nasce in un contesto meticcio. Ovviamente manco a dirlo, questo contesto meticcio è afrodiscendente, perché nella periferia di Montevideo, sulle sponde appunto del Rio della Plata, dall'Africa attraverso il Brasile arriva una delle danze afrodiscendenti che poi vanno a formare il tango e si chiama candombé. Ne abbiamo già parlato, chi ha seguito la prima stagione l'abbiamo già citato. Non mi era venuto in mente prima, ma ora che lo dici è venuto in mente anche a me. Insomma, leggiamo, era una danza abbastanza elaborata, guidata da un maestro di sala. Insomma, il tango da questo ha preso i passi fantasiosi, le fermate, gli sgambetti, che a me divertono molto. Succede però, ciao Pietro, succede che nel 1871 la popolazione nera di Buenos Aires viene decimata da un'epidemia, e per cui questa componente più direttamente africana viene sostanzialmente dimenticata, se non deliberatamente ignorata. Però abbiamo intanto stabilito, poi magari ne riparleremo anche con i ragazzi, fuori di dubbio la discendenza africana del tango, che è già un buon risultato. Per introdurci, per entrare, per scaldarci, entrare in questo ambiente rioplatense, andiamo subito a sentirci un tanghito abbastanza moderno di questa band che si chiama La Cicana, e il pezzo si chiama Juguete Rabioso, mentre noi siamo sempre in diretta su Radio Exalge. Sono le 8:05, siamo, io credo, quasi perfetti, e ci andiamo a sentire questo pezzo, Juguete Rabioso della Cicana. veterano del insomnio, soy un viejo prematuro. Se me cansan las palabras, no es una forma de hablar. Tengo una viola italiana, cuando hay hambre no hay pan duro. El Mario me la endereza, pero se vuelve a doblar. Para agarpar el casorio y el anillo, vendí el coche. Inocente adolescente, rematé mi libertad. Soy un yonki de la tele, sin volumen a la noche, como pa' no molestarla, aunque ella ya no está. Loca, no me exilies de tu boca, por la culpa que te toca, mencioname una vez más. Típico de mí que vivo en pena, se me da una mano buena y la tengo que arruinar. Vos te esmeraste conmigo, a mi vieja le dijiste que me ibas a domar. Mi revolución era apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Fui tu juguete rabioso, fui tu mito encadenado. Me tomaste de amuleto, un flaco para tu cruz. Me amigué con tu retrato, cuántas veces lo he besado. Y lo abrazo preocupado cuando se corta la luz. En mi guitarra torranta y un tango agazapado. Ver canta que me amuraste, no te puedo ni cantar. No me sale más lirismo, tengo un verso atragantado donde te mando a la mierda, después vuelvo a suplicar. E la cicana, juguete rabbioso, mentre è saltata la corrente ex alge, ma noi in tempo record abbiamo rimesso tutto in piedi e siamo di nuovo in diretta su Radio Ex Alge e in realtà è live da, ovviamente, da Ex Alge in Milano. Forse l'abbiamo detto solo un'ora fa, ma ovviamente piove, venite a coprirvi Ex Alge, che c'è la bella musica, c'è bella gente da mangiare e da bere. C'è un sacco di gente, raga, grazie mille. Sì, esatto, siamo contenti di vedere il posto pieno e, perché noi appunto ci teniamo molto alla musica, ma teniamo anche molto a questo posto. E dunque, parlavamo di tango, a noi piace anche parlare di parole, per cui il termine tango è una cosa che si trova prima dell'apparizione della cultura musicale, anche se ovviamente con che, diciamo, riferendosi, che si riferiva a cose diverse. Ad esempio, Habanera, il nome con il quale i bianchi di Cuba indicavano lo stesso ritmo che i neri che risiedevano a La Habana, Cuba, chiamavano tango congo. Questa Habanera è stata esportata in Europa dopo che uno spagnolo che si chiamava Sebastián Iradier, che aveva soggiornato a La Habana, se ne torna in Europa e diciamo che la diffonde. Anzi, c'è stato proprio un certo tipo di canone spagnolista che in certa musica anche alta europea in quel tempo è stato molto, molto importante. Leggiamo dell'impiego dell'Habanera nella Carmen di Bizet tra il 1838 e il, scusa, queste credo siano le date di Bizet, morto nel 1875. E insomma, era una cellula ritmica molto simile a quella che si chiama Café con Pan, che è insomma alla base di tantissime danze latinoamericane. e si trova questo ritmo nella milonga, che è un termine di origine africana che vuol dire parola, chiacchiera, che è una cosa più cantata, di cui poi andremo a sentire una cosa. Insomma, è anche qui nell'interazione tra questi fattori, cioè abbiamo parlato della candombé, la manera che poi aveva successo in Europa, e la milonga, che vanno a formare quello che poi noi conosciamo come tango. Un contatto che ovviamente avviene nel tempo e nei luoghi dell'urbanizzazione. Abbiamo parlato di Montevideo e Buenos Aires, che è un tempo e un luogo che poi trasforma i contadini, quelli che si chiamavano compadres, che erano arrivati dalle campagne nelle città, li trasforma in guappi, che sono quelli di quei soggetti umani di cui abbiamo parlato prima. C'era tantissima immigrazione, noi ovviamente lo sappiamo, tantissimi italiani, europei, ma soprattutto italiani, sono arrivati a Montevideo e Buenos Aires in quegli anni. Tutto ciò succedeva ovviamente ai margini, non nelle vie belle, ma nelle periferie brutte e nelle osterie, nelle bettole, in certe scuole di musica e di ballo. Ha avuto origine il tango così come lo conosciamo, come coincidenza di diversi fattori diversi, di diversi fattori appunto, che è una cosa che a noi a Battista Madre piace sempre raccontare, questa quasi casualità, no? Questi incontri quasi fortuiti che poi vanno a generare qualcosa che resta per sempre. E abbiamo nominato la milonga, io non posso non pensare a un uomo quando sento parlare di milonga, che si chiama Facundo Cabral di Misiones, mi sembra, Argentina, che è una regione nel nord dell'Argentina, ed è un poeta contemporaneo che però fa poesia con la chitarra e con la parola. Andiamo a sentire questa versione che è stata distribuita di questo suo pezzo che si chiama Non so idea chi, ni so idea sha, di cui io in realtà ne conoscevo un'altra che veniva da un live, ma insomma ha un testo bellissimo, molto molto poetico, ed è proprio emblematico di quello che chiamiamo milonga, che è cugina del tango. Questo è Facundo Cabral, Non so idea chi, ni so idea sha. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve me mojo, y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra, y qué me importa si no me nombra. Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Questa era la milonga di Facundo Cabral, che si chiama Non soy de aquí, ni soy de allá. In realtà nel frattempo ho controllato e mi sono sbagliato, perché non è di Misiones ma è nato a La Plata, e ho anche scoperto che è morto, non di morte naturale ma assassinato, in Guatemala nel 2011. Insomma, curiosità, mandiamo un buon pensiero, energie positive all'anima di Facundo Cabral, che ci ha lasciato delle poesie davvero davvero senza prezzo. Parlavamo prima con dell'immigrazione che ha contribuito, cioè che ha contribuito, che ha dato proprio la propria parte alla natura del tango, e abbiamo parlato dei tanti immigrati che dall'Italia, in realtà soprattutto da Sicilia e Liguria, sono arrivati sulle sponde del Rio della Plata. Divertente è questo fatto, cioè l'influenza che hanno avuto gli italiani in Argentina all'epoca non è stata solo negli usi e nei costumi, cosa che poi noi oggi ci ritroviamo, perché poi in Argentina, o meglio, quando un italiano incrocia un argentino si capisce subito che siamo cugini e siamo molto d'accordo, ma è stato anche dal punto di vista lessicale, perché è nato questo dialetto, questa nuova lingua che si chiama lunfardo, che conserva proprio delle parole dialettali spesso genovesi, mischiate con quello spagnolo che si parlava a fine Ottocento a Buenos Aires e a Montevideo. Bene, tantissimi tanghi dell'epoca sono scritti in lunfardo, per cui ci piaceva anche sottolineare, no? Il nostro piccolo contributo. Sì, no, esatto. Piccolo un cazzo, bellissimo. Cioè. Il tango diventa famoso all'inizio del Novecento, subito famosissimo in Europa, quando, soprattutto a Parigi, quando arrivano nel 1907 Angel Visholdo, Alfredo Eusebio Gobbi e Flora Rodriguez, che insomma restano per 7 anni a diffondere musica e danza del tango. Diventa una grande moda. Diventa una grandissima moda, tant'è che, altro aneddoto divertente, pare che se ne sia addirittura preoccupata la Chiesa del tango, e che Papa Pio X abbia accolto 2 ballerini di tango per sincerarsi proprio personalmente che questa cosa non fosse troppo immorale, non fosse troppo lasciva. Tanto era insomma la popolarità di questa danza e di questa musica che il Papa se ne è preoccupato. Vale la pena, anzi bisogna rendere omaggio a Carlos Gardel se si parla di tango, perché è stato la prima superstar. Anche lui non ha fatto solo musica ma film, è stato proprio un personaggio enorme, anticipando proprio quello che è stata la superstar nel XX secolo. Gardel, che è morto molto giovane nel 1935, quando aveva poco più di 40 anni, a Medellín, Colombia, in un incidente aereo. Non espanderò qui, ma c'è una cosa molto curiosa anche su Gardel. Non si capisce se sia nato in Francia o in Argentina, se sia francese o argentino. Pare che ci fosse un Charles Gardel francese nato a Tolosa e un Carlos Gardel nato a Buenos Aires, che, non, insomma, non si capisce davvero quale sia la storia. È carino, andatevelo a cercare, andatevelo a leggerlo, perché è abbastanza divertente la storia sulla nascita di Carlos Gardel. Di cui sentiamo un pezzo che in realtà non è esattamente di Gardel, ma è proprio un classico, uno di quei pezzi che abbiamo suonato tanto, Battito Madre, di cui non si riesce a risalire alla paternità, perché fanno proprio parte del patrimonio culturale di una musica. Questo Carlos Gardel che ci andiamo a suonare è Cambalace, in cui parla in modo molto dispregiativo del XX secolo appena iniziato. Prestandoci l'orecchio, a me fa strano pensare che parli del XX e non del XXI. Direi che andiamo ad ascoltarcelo subito, questo Cambalace del re del tango, Carlos Gardel. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplauso ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta bisque va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Cambalace di Carlos Gardel, un grandissimo classico del tango, di un re del tango. Mentre questa era l'ultima... l'ultimo pezzo della playlist che abbiamo preparato io e Colin, perché è arrivato il momento di introdurre quelli che sono i nostri ospiti di questa sera, che ci terranno compagnia un po' in diretta qui adesso. Ormai e dopo... lo diamo per scontato che sì, abbiamo sì. Degli ospiti. No, no, certo, però non abbiamo anche... detto ancora niente. No, esatto, bravo, che è un nostro errore, infatti è una certa, è giusto anche fare onore a loro e dare la medaglietta a noi che siamo riusciti a portarli. E, dunque, grazie Marco e Cam intanto per aver accettato questo nostro invito. Grazie, grazie ragazzi, io sono Marco, qui al mio fianco come sempre la divina la Cam la divina. Divina. Grazie a voi per l'invito. Grazie soprattutto per questa narrazione che avete fatto partendo dal flamenco, attraverso il fado e adesso al tango, perché mi avete fatto rivivere un po' la traiettoria della mia vita. Bellissimo. Che è iniziato nelle terre andaluse come vacanziero con la mia famiglia, dove mi sono innamorato del ballo e della musica. Poi ho avuto la fortuna di vivere a Lisbona e voglio dire di godermi notti interminabili di fado, e poi la vita mi ha incontrato adesso qui in una veste tanghera. Non potrei aggiungere altro se non l'emozione di trovarmi qua e poter raccontare un pochettino di quello che mi appassiona. Quindi grazie ragazzi, complimenti per la trasmissione. Grazie a voi, per me è una grande emozione sentirvi dire queste cose. Io volevo chiedervi proprio, magari fuori onda per evitare risposte, però un parere su quello che avete appena sentito. Grazie davvero di queste belle parole. Cami, una tua sul tango, raccontami il tango. Allora, il tango ormai è tutta la mia vita e è molto interessante perché a questo punto si balla ovunque. È nato appunto tra Buenos Aires, insomma sul Rio della Plata, però oggigiorno è diventato un linguaggio universale. È interessantissima soprattutto questa parte, se imparate a ballare tango è come imparare un nuovo linguaggio che poi vi vale in tutto il mondo. A me è capitato di essere in paesi in cui facevo veramente fatica a comunicare con le persone finché non si iniziava a ballare. E lì bellissimo. È stata una delle esperienze fortissime. Mi è capitato per esempio a Parigi, in una città che è una grandissima città, quindi è molto difficile arrivare a Parigi e conoscere dei parigini. Però se sai ballare il tango e vai in milonga, in una serata ne conosci tanti e soprattutto riesci a comunicarci anche se non parli il francese. Linguaggio proprio anche nel senso di dialogo, vero? Perché mi era capitato di parlare con altri che ballavano e mi hanno proprio raccontato che non esiste nulla di scritto, ma è un continuo ascolto del proprio compagno, della propria compagna, a cui insomma si continua a reagire a quello che fa l'altro, no? È una pura improvvisazione, almeno il tango argentino. È pura improvvisazione, quindi ovviamente all'inizio è come imparare prima una grammatica, poi si passa insomma all'analisi logica. Non si può fare subito la maratona, bisogna cominciare a stare in piedi e poi camminare. Esatto, e ci sono anche ovviamente un po' un gioco di ruoli, c'è chi guida o chi propone, c'è chi interpreta, segue. Però ad un livello, quando si diventa più esperti, a un certo punto diventa proprio un dialogo, diventa interessantissimo, i ruoli quasi si confondono ed è una poesia unica, è una musica molto particolare, ha tantissimo sotto, ha molta poesia, la textura musicale è molto interessante, quindi... Però di questo magari vi parla Marco, che è ben più esatto, sulla di... poesia mi interessava fare un affondo dopo. Io vorrei fare un passo indietro. Prego. Voi siete qua in qualità di coppia di ballo, ma anche nella vita, è vero? Sì. Ok. Non era questa la mia domanda, scusate. Come va la vita di coppia? Come va la vita di coppia? La mia domanda è chi siete? Perché Tango 02 è una realtà di cui non abbiamo ancora parlato. Giusto. Sì, allora, siamo una coppia da un'infinità di tempo, però nel tango ognuno rinasce e sembra riniziare da capo quando si perde nell'abbraccio di un'altra persona, quindi forse quello è il segreto per cui dopo 12 anni ancora mi sopporta Cami. Ad ogni modo, da 2017 come appassionati di tango abbiamo un'associazione che abbiamo fondato io e Cami insieme ad un amico Carlo, che magari ci sta ascoltando e a cui mandiamo un grande abbraccio. Da appassionati, da passione si è trasformata negli anni in un progetto che è riuscita ad avvicinare un numero impressionante di persone che si credevano molto distanti dal ballo, ma poi si sono riscoperti dei piccoli esseri ancestrali capaci ancora di abbracciarsi, battere i piedi per terra e riuscire ad emozionarsi. Perché allora, per la poesia chiedete a me, per il lato danzereccio chiedete a Cami, ma quando ci si abbraccia e si prova a comunicare in maniera silenziosa, ci si accorge che le emozioni viaggiano molto più veloce che le parole. Ed è incredibile come lasciarsi andare in un abbraccio si riesca poi effettivamente a ballare con un'altra persona, emozionarsi e perché no, poi magari seguire nella notte profonda della musica. Meraviglioso, grazie mille per questa escursione che proseguiremo tra poco, perché voi ci avete portato tre pezzi, vero? Per chiudere la nostra playlist. Allora vi chiederei, Marco Cami, chi dei due vuole, di lanciare il primo. Allora, voi ci avete chiesto un'impresa ardua, cioè selezionare tre pezzi nella discografia enorme del tango, che diciamo è pluricentenaria ed è riuscita a essere interprete dello spirito del tempo in tutti questi anni. Abbiamo scelto un po' distinto, devo dire, abbiamo scelto perché il primo pezzo l'ha scelto la Cami qui presente ed è Notturno a mi barrio, interpretato dal bandoneon maggior de Buenos Aires, Aníbal Troilo, ed è un canto, un inno alla distanza o alla remembranza, che sono un pochettino i temi cari al tango, quelli del ricordo. Il tango è nato sulle fondamenta dell'emigrazione e dell'incontro tra culture, eccetera, e questo è un canto del barrio, il canto del quartiere, in cui Aníbal Troilo ricorda la sua adolescenza, lui che non conobbe mai la nostalgia del piroscafo, lui che non se ne andò mai da Buenos Aires, anche se molti detrattori lo considerarono nel tempo un pochettino come dire, lontano, è sempre stato capace di interpretare lo spirito del tempo della città di Buenos Aires. Quindi con molto piacere vi introduco Notturno a mi barrio con la voce e il bandoneon di Aníbal Troilo. Así, pero yo me lo acuerdo así, con Jacumín, el carbuña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de jazz izquierdo al mío, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí. Siamo tornati in diretta dopo aver sentito questo Notturno a Ioardio, il primo pezzo che ci hanno portato Marco e Cami per parlare con noi di tango. E stavamo parlando un po' di questo, che appunto è una dedica al suo quartiere. Mi stavi raccontando, Marco, di una famosa frase di Annibal Troilo, che è? Sì, attribuita ad Annibal Troilo e poi fatta nostra da tutto il popolo tanghiero. La dirò in spagnolo e spero che si capisca da casa: non se tratta di ser poeta, sino di vivir en estado de poesia. La traduzione libera la lascio a voi. Ad ogni modo, credo che questo tango, che non è veramente ballabile nel senso, diciamo, degli appassionati per la maggiore del tango, però esprime tutta la poesia che c'è dietro. Posso dire, scusa, non è ballabile solo per chi balla tango, ma non è ballabile. come fai? Chiaro, è più uno di quegli esperimenti in cui riusciamo a perderci dietro a quello che diceva Cami, la testura musicale del tango, che veramente dal punto di vista musicale non esiste in altri generi. Neanche il jazz è riuscito nel tempo a creare questo tappeto musicale in cui abbiamo, lo dico per chi ci sta ascoltando e magari non sa come è composto un'orchestra di tango, però da bandoneon, vari, pianoforte, contrabbasso, violini, per la maggiore. Poi qui ascoltiamo una chitarra elettrica, per esempio. La chitarra, la viola, fa parte del tango fin dagli albori. Gardel era un chitarrista, poi si è un po' perso, come dire, il protagonismo della chitarra e sta ritornando a rivivere con le nuove composizioni di tango, come quelle che avete fatto ascoltare prima, il tango contemporaneo, no? Che è capace ancora adesso di raccontare le vite di intere generazioni, per cui credo che questa sia veramente la forza del tango e del motivo per cui sopravvive nel tempo. Io vorrei parlare un altro po' di poesia, perché l'abbiamo nominata adesso, l'abbiamo nominata prima, 10 giorni, 2 settimane fa, quando ci siamo sentiti al telefono e tu mi stavi parlando del tango di Martin, che è venuto qui a trovarci. Mi hai detto che è un bel misto tra musica, poesia, che poi il tango è un po' questo, abbiamo detto milonga, cioè la parte parlata. Vi va di raccontarci un po' questo miscuglio, questo vortice? Ah, se chiedete a me, io poi non smetto più, non so quali sono i tempi radiofonici. Ok, allora, sì, il tango non è soltanto musica, è anche poesia ed è cultura popolare che oggi è diventata globale, che è riuscita anche a raccontare la storia non soltanto della città di Buenos Aires o di Montevideo, ma adesso di tutto il mondo. Diceva Cami che oggi se si va in Thailandia si può ballare tango. Però dietro c'è una poetica spagnola viva, con parole scritte con metrica poetica, quindi quella sicuramente è una parte interessante per tutti gli amanti della letteratura spagnola, della poesia, che è stata capace di incorporare per esempio la drammaturgia francese, Manon Lescaut, tutti gli scritti di Dumas, del teatro francese, delle donne di cabaret che cercavano fortuna, eccetera, e hanno incontrato, ahimè, miseria. E quindi sì, poesia in tutte le direzioni, a 360 gradi. Poi fermatevi voi quando dico troppo. Adesso mettiamo il secondo pezzo. Okay. Che è ad opera di un poeta del tango, Evaristo Carriego. È dedicato a Evaristo Carriego, che è stato un grande poeta del barrio, cioè del quartiere. E in questo caso l'orchestra di Osvaldo Pugliese ha deciso di dedicargli uno dei tango più popolari nel mondo. In strumentale non ci saranno le parole qua dietro, ma ci sarà un'orchestra di fuoco. Sì, qualcuno questa canzone l'ha definita come immagine l'idea di percepire da sotto la fessura di una porta un incendio che divampa e che sta arrivando. Quindi attenzione che arriva il pezzo. Bello. Da 90. Allora sentiamo tutto questo incendio del maestro al piano Osvaldo Pugliese, che suona a Evaristo Carriego, poeta argentino. Sì, abbiamo appena assistito all'incendio da dietro la fessura della porta, bellissimo questo. Tra l'altro abbiamo sentito un bandoneonista, un pianista e dopo sentiremo invece uno, Julio Sosa cantava e basta? Julio Sosa sì, era un cantor abbastanza popolare diciamo degli anni 50 e 60. Perfetto, perché una selezione anche direi i pezzi più famosi diciamo del tango, o se volete se un neofita gli fosse chiesto quale tango conosci sarebbe questo. Adesso non spoileriamo niente, ci teniamo un pochettino di suspense ancora. Esatto, perché a proposito di spoiler, quando noi staccheremo la diretta succederà qualche cosa di molto carino, perché voi siete venuti qui certo come appassionati, certo a fare due chiacchiere in radio, però la cosa che vi piace di più fare, la cosa che noi abbiamo più voglia di vedervi fare è ballare, per cui che cosa succederà qui tra un quarto d'ora? Allora, hanno già cominciato, alcuni sì, della nostra associazione i corpi. Si stanno già scaldando in pista. L'idea è che il tango, oltre a essere tutto quello di cui abbiamo già parlato, una cultura, una poesia, una musica eccezionale, è fondamentalmente un ballo sociale. ed è bellissimo poter condividere momenti di ballo con altre persone. E ci sono un sacco di cose sottili che succedono in tutto questo, è molto interessante. E qualcuno ultimamente me l'ha definita un'ottima droga, forse la migliore delle droghe. Una grande pubblicità, qualcuno, direi. Qualcuno dei ragazzi che ha cominciato da poco l'ha definita in questo modo, e effettivamente se il tango ti prende diventa una droga. Quindi, da dipendenza. Quindi sì, da decisamente dipendenza, c'è tutto il... tutta la parte anche del contatto fisico, della condivisione, che è sicuramente un grosso fattore molto interessante. E allora noi lo assumeremo con grande responsabilità, ma anche con grande divertimento, con grande voglia di vedermi e di partecipare, se non con i nostri corpi, per chi non se la sentirà, almeno con lo sguardo. Io prima di tutto vi ringrazio per aver accettato questo nostro invito. E io vorrei dire un'ultima cosa, anzi fare un'ultima domanda. Perché ieri parlavamo un po' di quelli che sono oggi i luoghi di Milano, barra di Milano, d'Italia, in cui si balla tango. Oggi siamo in Exalge, che non è un posto in cui si balla tango, però immagino ci siano dei luoghi di riferimento dove il tango avviene. Abbiamo parlato prima in trasmissione che effettivamente c'è il luogo, la circostanza, eccetera, hanno fatto grande, hanno dato modo al genere di svilupparsi, eccetera, quindi diteci qualcosa in più su questa cosa qua. Sì, se parliamo della città di Milano, oggi il tango si può ballare ogni sera, di ogni giorno, di ogni notte, diciamo, perché poi è un'esperienza abbastanza notturna, di ogni notte della settimana, e nel fine settimana ci sono anche varie opzioni tra cui scegliere. Di quelle, eccetera, che si chiamano per i non addetti ai lavori milonghe, che oltre a essere un sottogenere musicale tra quelli che si balla quando si va a ballare tango, è una parola che definisce proprio il luogo, la balera in cui si balla specificamente tango. Ed è un luogo che conserva quell'anima familiare, dove la gente si riunisce prima di tutto a un tavolo a chiacchierare e conoscersi, e perché no, a un certo punto, se si incontra bene con una persona, a provare a ballare. Ed è veramente, lasciatemi dire, lo specchio della società in cui desidero vivere, e per questo ci troviamo a provare a promuoverla come esperienza, perché soprattutto in questi ultimi tempi abbiamo bisogno di ricreare una comunità, di ritrovarci in un abbraccio, ritrovarci magari a chiacchierare, a guardarci ancora negli occhi, e perché no, magari a perderci insieme nella musica. Grazie mille. Grazie a voi, ragazzi. Grazie ragazzi, grazie dell'invito. Grazie ancora. Io vi farei solo lanciare l'ultimo pezzo che ci avete portato prima di salutarci definitivamente per questa diretta, e poi in realtà di stare vicini e insieme dentro la milonga. Allora, con molto piacere vi ringrazio di nuovo e vi faccio complimenti, ragazzi, e non potevamo che chiudere come di consueto si chiude una serata di milonga, e se ne riapre un'altra, perché no, con la comparsita, canta Julio Sosa live a Battito Madre in Exalge. Io sono Bomaduro. Io sono la Cami. Sempre viva il tango. Viva il tango, grazie ancora. Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo, porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron, y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos. Porque soy un perro que no tiene dueño. Porque tengo odios que nunca los digo. Porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido. Por eso canto tan triste. Por eso. Come into the room to do. Please cut the fuck. To do. Fuck. Do. Fuck. Fuck. To do. www.askthebenny.com.